taglio deciso. E eravamo arrivati a vedere un po' il processo delle origini dell'uomo, come sono studiate e un po' anche capite dalla scienza, e avevamo parlato delle varie dei vari tipi di uomo, che sono, diciamo, dopo l'australopiteco c'è habilis, erectus e poi sapiens. Allora, ci sono molte incognite, e adesso poi dirò quello che ha detta così di Fiorenza Facchini, che stiamo un po' seguendo, è lo stato attuale delle conoscenze sull'uomo. Facciamo un attimo una premessa terminologica su monogenismo, poligenismo e monofiletismo o polifiletismo, che è una premessa utile poi per vedere qual è attualmente l'opinione più diffusa tra gli scienziati sull'origine umana. Allora, quando si parla di monogenismo si intende l'origine, affermare che l'origine dell'umanità è in una coppia, una prima coppia, no. E basta, poi di lì viene l'umanità. Andiamo a dire. Non è un'idea nuova. Ecco, e poi questo però siamo in una prospettiva di terminologia anche proprio scientifica, quindi per esempio lui dice non si può escludere in via teorica che, pur per esempio affermando il monogenismo, individui, cioè che ci possono essere state a un certo punto specie diverse di uomo. Vabbè, comunque un discorso puramente di monogenismo, derivazione di tutta l'umanità da una prima coppia. Poi c'è il poligenismo, che di per sé significa che l'umanità invece sarebbe derivata da più coppie apparse più o meno in un certo periodo, in tempi più o meno uguali o diversi, insomma, comunque da più coppie primordiali, diciamo. Il poligenismo può essere poi monofiletico o polifiletico, cioè cosa vuol dire monofiletico? Vuol dire che il monofiletismo è la teoria che dice che l'umanità deriva da un solo ceppo, da una sola specie, cioè, e polifiletismo invece è dire che l'umanità deriva a partire da più specie diverse, più specie che poi in qualche modo o sono confluite oppure sono rimaste specie diverse. In questo caso dovremmo vedere oggi nell'uomo specie diverse, invece l'uomo si ritiene, c'è concordanza sul fatto che sia una specie sola, cioè dai tipi di ominidi che a un certo punto sarebbero evoluti in uomini, sì, di diversi tipi, esattamente, diversi. Cioè in pratica monofiletico vuol dire che c'è un'unica specie e non più specie che evolvono, diciamo, producono figli. A un certo punto supponiamo che in questa specie qui, che ne so, faccio io per quello che capisco io, da qui taxi di rama e di qua e si arriva, e questo è Homo sapiens. Accendiamo un po' di luce per... prima Homo habilis e poi di qua va a finire, che ne so, sì, dipende, diciamo Homo sapiens, okay. Perché questo potrebbe essere perché poi vi dirò, comunque una specie vivente, e a un certo punto si dirama, da una parte c'è l'uomo e da una parte l'altra. Un'altra specie vivente che a un certo punto è evidentemente simile alla prima, non poteva essere le balene che poi diventano uomo, ma un altro tipo di ominide, che anche qui c'è Homo sapiens, HS, e di qua, che ne so, qualcos'altro, o di qua continua a essere quello che era prima. Questo significherebbe polifiletismo, cioè che si arriva alla specie Homo sapiens non da una sola specie di partenza, ma da anche da altre specie di partenza che poi per una variazione danno origine all'uomo. Questo è il polifiletismo. Allora, quando si dice che è evidente che se fosse avvenuta una cosa del genere, che da una specie, questa qui, diciamo, chiamiamola specie 1, o ceppo, si parla di ceppo, ma io credo che sia la stessa cosa, specie 1 e specie 2, si arriva all'uomo, è evidente che qui siamo già nel poligenismo, perché qui ci sarebbe almeno una coppia iniziale, un individuo e poi una coppia iniziale e qui un'altra coppia iniziale, quindi sarebbero almeno due coppie. Quindi se parliamo di una cosa polifiletica, se siamo nel polifiletismo, può essere solo anche poligenismo, cioè okay, ci sarebbero più coppie. Ma supponiamo invece di essere che si ritenga, come di fatto si ritiene, che poi ve lo dirò dopo, che l'umanità discenda da una sola specie di partenza, che poi questa specie per un qualche salto evolutivo ha dato origine alla specie uomo, però una sola specie di partenza. Ecco, in questo caso, anche in questo caso, si può ritenere, quindi qui siamo, separiamolo, questo è uno scenario, questo qui è polifiletismo, ed è anche poligenismo, no? Necessariamente. Ci mettiamo in un altro caso, distinguiamo, e mettiamo che ci sia invece qui appunto una sola linea, una specie di partenza, chiamiamo specie 1, e a un certo punto si produce in questa specie, da una parte questa specie continua a evolvere in un certo modo e da una parte qui si origina l'uomo, Homo sapiens. Allora, qui ci potrebbe essere, dal punto di vista puramente scientifico, o una sola coppia che ha originato tutto questo ramo, oppure più coppie. Nel primo caso sarebbe monogenismo, nel secondo caso saremmo in una visione poligenista. Quindi questo qui è filetismo, e il monofiletismo può essere è compatibile con una visione poligenista, cioè dove più coppie a un certo punto fanno il salto e diventano umane e poi di lì da loro procede tutta l'umanità, oppure a un certo punto una coppia diventa umana e di lì viene fuori tutta l'umanità. Quindi queste sono le possibilità. Allora, quale è lo stato attuale, diciamo, delle ricerche della paleoantropologia? Che cosa si dice? La grande maggioranza, diciamo, riconosce il monofiletismo. Monofiletismo, quindi non siamo in questa visione qua dove ci potrebbero essere addirittura più specie che a un certo punto diventano umane, ma l'umanità deriva da una sola specie di partenza. Questo monofiletismo è radicato in Africa, cioè si ritiene che i progenitori dell'umanità sono stati in Africa, poi di lì si sono diffusi. Ma questo è un dato abbastanza piuttosto forte e consolidato. Poi ci sono molti dubbi su molte cose. Per esempio, quella successione Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, non è chiarissimo se un elemento dall'Homo habilis poi si sia passati all'erectus, oppure se hanno avuto due origini indipendenti, l'Homo habilis e poi l'Homo erectus, è venuto fuori indipendentemente. E quindi c'è il dubbio se siano due specie che sono state una che ha dato poi origine all'altra, oppure se abbiano avuto due origini indipendenti. Quindi non si, ecco, non si sa neanche bene dove si pone il livello umano, quindi dove c'è l'uomo. Alcuni dicono che già l'Homo habilis è umano, allora certo in questo caso dovrebbe essere venuto poi dall'Homo habilis anche l'erectus, che è sempre umano, è più evoluto, e poi il sapiens. Comunque ci sono parecchie discussioni, dubbi, opinioni diverse. Però si afferma da parte di, insomma, della maggioranza degli scienziati il monofiletismo, con i progenitori in Africa. Invece, per quanto riguarda monofiletismo con una sola coppia, quindi monogenismo o più coppie all'inizio, quindi poligenismo, su questo non lo si sa, e io vi riporto due opinioni, una quella di qui di Facchini e poi una invece di Mariano Artigas, che la scrive qua nel suo libro Filosofia della Natura. Facchini è un po', lui dice così, parla del monofiletismo e dice: il monofiletismo può apparire più conciliabile con la dottrina del peccato originale, ma in realtà anche nel monofiletismo resta il problema della pluralità di coppie, cioè anche il monofiletismo, come abbiamo detto, può avere qui una o più coppie, non è esclusa la pluralità di coppie. E quindi resta il problema del poligenismo, che, dice Facchini, sembra essere richiesto dal successo evolutivo di una specie. Cioè lui è incline a dire che, in un altro punto lo dice, che le possibilità che la discendenza da un'unica coppia, le possibilità che la sua discendenza di questa unica coppia si mantenga, proceda, vada avanti, dal punto di vista statistico sono minime, per non dire nulle. Questo dice Facchini. Quindi lui, che diciamo dal punto di vista scientifico, dice questo. Tanto che poi nel suo articolo si dilunga abbastanza sul dire: ma è veramente richiesto strettamente il monogenismo dalla rivelazione e dalla dogma sul peccato originale, oppure potrebbe essere conciliabile anche con il poligenismo? Quindi lui propende per dire: il monogenismo è difficile da sostenere, però comunque dice che questo non conclude poi, dice: probabilmente, come è stato osservato da Marcozzi, che è un altro, su questo punto, mono o poligenismo, o ci si affida a una rivelazione oppure non si potrà mai disporre degli elementi necessari per fare supposizioni diverse dalle supposizioni di ordine scientifico, che però restano supposizioni. Cioè la scienza non sembra, almeno in questo momento, non sembra capace di dire se c'è stata una coppia o più coppie, con osservazioni di fatto. Perché veramente questo possiamo anche immaginarselo facilmente. Come facciamo a dire: troviamo qualche resto qua e là di Homo erectus, qua e là di Homo habilis, poi di Homo sapiens, e uno come fa a dire se quei resti sono venuti tutti da una sola madre, padre o da più? E poi uno li trova un po' qui, un po' là, un po', insomma, la scienza non riesce, la scienza, cioè la ricerca, è chiaro che non potrà dirci niente di dire. Semmai la scienza può fare, conoscendo sempre meglio i meccanismi di propagazione, diciamo, di una specie, dei caratteri ereditari, eccetera, può fare le sue supposizioni. su cosa è più probabile o meno probabile. Comunque Strumi, ho visto che, parlando di Tommaso d'Aquino, sostiene che in fondo si potrebbe anche pensare a un certo numero di coppie che siano venute più o meno quasi insieme, però dice necessariamente una di queste è stata comunque prima assoluta, e questo non si deroga, e questo è già un fatto interessante. Certo, il difficile sarebbe spiegare che se c'è certo, stata una prima ma le altre non sono derivate da quella, dire ma come mai allora se una prima cade allora le conseguenze del peccato si estendono a certo, tutti o hanno cioè, peccato tutti. Se accetti questo devi eliminare l'idea che si propaghi tramite generazione, dovresti dare un'altra teoria. Allora, dato che tutti comunque condividono la stessa natura, bastava che una coppia qualunque prima o poi però io lì ti direi allora ma perché se la coppia esiste la coppia A, B, C, D, certo. Perché se la coppia A pecca anche B, C e D gli viene tolto la santità, la giustizia, scusa ma è stato lui, non sono stato mica io. Un conto è se quello è mio padre, io da mio padre ricevo, come vedremo, i doni che Dio aveva dato a lui anche per me, e il Signore dice guarda, io te li ridarò con Cristo, però per ora le conseguenze di quello che ha fatto tuo padre, siccome la storia voglio che sia una storia vera, le porti so, anche poi... tu. Ma un altro conto è dire che lui influisca su tutti gli altri. Allora bisognerebbe dire che tutti sono caduti. Per l'appartenenza comune alla natura umana. Ma no, perché? Cioè, se sono nate non da Adamo, perché? Cioè, perché il peccato di uno deve incidere immediatamente su tutti? Se mai uno può dire Adamo ha peccato, allora poi lui influenza negativamente anche tutti gli altri. Ma non so se poi questa spiegazione diventa più semplice e più plausibile di quella che invece abbiamo nella scrittura. Comunque, Comunque mantenendoci adesso nell'ambito di quello che la scienza dice o opina o suggerisce, leggo quello che dice Artigas nel libro qui Filosofia della naturalezza, pagina 272. Dedica un paragrafetto breve, non è che fa un discorso approfondito, però perché ho cercato cose più approfondite ma non ho trovato molto, poi vi dirò cosa ho trovato, sono cose piuttosto così superficiali. Finalmente, infine può risultare opportuna un riferimento al monogenismo, cioè alla dottrina secondo cui tutti gli uomini procedono da un'unica prima coppia. A volte si dice che, se ammettiamo l'evoluzione, il monogenismo sarebbe insostenibile. In una visione scientifica evolutiva dell'evoluzione, il monogenismo sarebbe insostenibile. È un po' quello che fa capire Facchini, perché dice... Dal punto di vista statistico, una sola coppia che generi una discendenza che si mantiene è improbabile. Quindi alcuni dicono che se ammettiamo l'evoluzione il monogenismo sarebbe insostenibile e dovremmo affermare il poligenismo, cioè l'origine dell'umanità a partire da un insieme di esseri umani primitivi, da un gruppo iniziale. Tuttavia il problema è più complesso. Cioè non si può semplicemente dire così. Il poligenismo non è così semplice come sembra a prima vista. Sarebbero giunti a essere davvero umani differenti esseri nell'arco di tutta un'epoca? Quindi si chiede, non è neanche facile pensare che diversi esseri, a un certo punto tutti passano a essere umani e poi più o meno nello stesso momento, anche nel tempo, però diversi. Comunque dice, ad ogni modo non abbiamo nessuna prova scientifica di questo, quindi del poligenismo. Nell'ambito strettamente scientifico è difficile giungere su questo punto a conclusioni definitive. Però è interessante far notare che dal punto di vista della scienza non c'è nessuna ragione che costringa ad ammettere l'origine che l'origine dell'organismo umano per evoluzione implicherebbe il poligenismo. Poi lo rileggo. E non esiste nessuna difficoltà di principio nello spiegare l'origine dell'umanità attuale a partire da un'unica prima coppia. In soldoni. Dal punto di vista scientifico non siamo assolutamente obbligati ad affermare il poligenismo. La scienza non ha ragioni stringenti per dire che l'origine è da più coppie, ok? Invece, secondo Artigas, a differenza di quanto dice Facchini, che ritiene il monogenismo molto improbabile, Artigas dice: non c'è nessuna difficoltà di principio nello spiegare l'origine dell'umanità attuale a partire da un'unica prima coppia. Allora, qualche difficoltà però ci sarebbe, nel senso che perlomeno i figli di Amadeva dovrebbero essere figli tra di loro, appunto. Sì. E quello è possibile pensare che all'inizio per la popolazione dell'umanità questo avvenisse senza problemi, poi dopo un po' di tempo sappiamo che se certi ereditari dello stesso genere continuano a fare figli tra di loro vengono fuori gente tarata, quindi nessuno più usa. Sì, questo però un pochino penso che per noi è difficile sapere come erano le condizioni, cioè ammesso che ci fosse uno stato originario caratterizzato non solo dalla santità morale ma anche che questa vita dell'uomo in relazione con Dio ridondava in una sua umanità più, insomma, penso che il Signore avesse fatto le cose così come potevano non morire, non andare incontro alla morte, chiaro. Evidentemente avevano anche delle potenzialità maggiori, no, di quelle che abbiamo oggi. Però e probabilmente anche la adesso e poi su questo io non ho approfondito, quindi magari c'è qualcuno che invece ci ha pensato di più a come poteva essere la discendenza dei figli di Adamo, che evidentemente avrebbero dovuto avere non lo so, forse però appunto nello stato originario di santità dove le passioni tra l'altro erano tutte ordinate secondo il bene, in linea di principio uno dice: ma dove sta il male nel fatto che due persone che sono tra loro fratelli possano anche unire alla loro fratellanza una relazione, diciamo. No, ma lui parla dal punto di vista biologico, no? Che sì, però non so se era solo biologico o se anche c'era un discorso più di morale, diciamo. Perché tu dicevi anche il fine, il bene della generazione. Penso che un grande antropologo ha detto che la cosa che colpisce nell'antichità, diciamo, che tutti gli uomini vedevano nell'incesto un tabù tremendo, i greci poi non parliamone. Però questo deve essere venuto da una certa data in più nella storia, perché agli inizi, se ammettiamo il monogenismo, necessariamente fratelli e sorelle si sposavano. Cioè si sposavano, probabilmente non c'è mai stata la condizione per cui poi lo hanno fatto, perché Adamo ed Eva hanno peccato nel corso della loro vita prima di avere dei figli addirittura, quindi certo, è vero pure che comunque c'è stata la sì, è vero, no, no, era benissimo, però era già la situazione. Poi no, io ho sempre pensato che per un certo periodo, proprio per popolare il mondo, non ci fossero problemi nei rapporti tra fratelli e sorelle. E poi successivamente invece si è cominciato a cambiare, allora è venuto fuori l'idea che su questo io non ho assolutamente vietato particolari, non ho neanche trovato niente di scritto su questo, ma se qualcuno ha un contributo da dare, un'altra domanda, non c'entra, non so, ma sarebbe un'eresia pensare che, insomma, la Bibbia non sempre va presa alla lettera, no? Sarebbe un'eresia pensare che Dio avesse creato invece di un solo uomo un gruppo di uomini che hanno peccato tutti insieme, d'accordo? No, questo adesso ci arriviamo, vediamo cosa dice un gruppo di donne, vediamo cosa dice il Magistero su questo, Cioè senz'altro per quello che abbiamo visto finora della dottrina della Chiesa e anche della dogma di Trento, l'idea fondamentale, diciamo, l'interpretazione più ovvia di questa dottrina è che Adamo ed Eva sono due persone concrete, le prime due, e che da loro viene tutta l'umanità. Sto prendendo la Bibbia alla lettera, ma No, però non è solo prendendo la Bibbia alla lettera. Questa è la dottrina così come si è compresa, esplicitata e definita nell'arco del tempo fino a un concilio. Quindi ormai noi non ci basiamo più solo sulla Bibbia alla lettera. Ma noi che parliamo qui adesso parliamo alla luce anche della, del cosa la Chiesa ha detto nell'arco di... Ma è dogma di fede che Dio ha creato l'uomo solo. Ecco, adesso vediamo. Per ora ti dico che senz'altro è l'interpretazione più forte di quello che la Chiesa finora ha sempre detto. Quindi per dire qualcosa di diverso ce ne vuole. Però vediamo adesso, perché io adesso abbiamo visto finora le varie opinioni teologiche, poi ci siamo concentrati sul discorso scientifico, e adesso vediamo cosa dice il Magistero a partire dalla Humani Generis di Pio XII, 1950, proprio su anche la storicità di Adamo ed Eva, del racconto delle origini, la trasmissione del peccato originale, poligenismo e monogenismo. Quindi questo ci aiuta a rispondere più compiutamente alla tua questione. Scusa, posso? Sì. Ma questi signori che hanno affrontato queste cose non mettono in dubbio l'evoluzionismo? Cioè l'evoluzionismo non è mica una cosa certa. È vero. No, infatti non è che lo... Quindi, poi come spiegano gli evoluzionisti il fatto che i domini non esistono più? Cioè c'è stata un'evoluzione dei domini di queste varie livelli, non esistono. Buona domanda, non lo so. Anche gli altri. Insomma, allora... E comunque... sono stati ammazzati tutti? Beh, si sarebbero estinti effettivamente a un certo punto. Ma come si spiega? Secondo me è proprio che non sta in piedi la teoria dell'evoluzionismo. La teoria, diciamo... Molti sostengono questo, che non sta in piedi. Sì. No, senz'altro bisogna distinguere dalla teoria dell'evoluzione e da evoluzionismo. Evoluzionismo è già un concetto già filosofico, ideologico. Teoria dell'evoluzione, diciamo... parte da molti elementi, perché uno comunque quei resti lì degli australopitechi, prima degli australopitechi, di altri organismi diversi, uno li trova, li vede, quindi sì, è un fatto che certe specie effettivamente non esistono. L'australopiteco non esiste più, e questo è un fatto. Poi come lo spieghiamo può essere una... Sono anche specie animali che si sono estinte completamente, quindi poi cioè... Comunque è vero che la teoria dell'evoluzione ha senz'altro oggi una notevole forza, però ha molte lacune, molti punti critici, molti punti ancora oscuri. Quindi ci sono persone che ritengono che non è una teoria, diciamo così, valida. Sì, però più che, diciamo, adesso vedremo, ma più che attaccare la teoria, secondo me è importante attenersi a dire... Né estrapolare da quello che è il dato di fede delle conclusioni che non sono invece dato di fede, quindi né dal discorso scientifico estrapolare in modo ideologico delle conclusioni che non sono invece scientifiche, quindi non sono vere. Quello che è autenticamente scientifico, salvo grossolani errori, è anche vero, però deve essere scientifico, cioè trovato, visto, insomma, poi vari sono uomini di scienza, quindi insomma sappiamo che... Un'altra domanda, Nicola. Questo fatto che ci siano più coppie, è perché se io non ne so molto, ma comunque ho capito, il fatto dell'evoluzione è per mutazione, che è legato a una certa probabilità che avvengano delle mutazioni. Allora, è successo che più coppie abbiano avuto la stessa evoluzione? Questo è quello che non si riesce a capire, almeno a me mi sembra una cosa oscura. È quello che io ho provato a cercare, che effettivamente più coppie abbiano avuto le stesse mutazioni per... Sì, nel caso umano bisogna anche dire comunque la cosa fondamentale è poi che la mutazione può esserci stata una mutazione che ha portato sul piano biologico, cioè della struttura del corpo, un cambio positivo che ha reso quell'ominide più atto a ricevere anche la funzione psichica e l'anima, ok? Quindi ci può, però la mutazione, diciamo così, fondamentale, come a volte dice Ratzinger, il salto fondamentale è un salto che è prodotto dall'agire di Dio, cioè dal fatto che Dio quella... Comunque, da un punto di vista strettamente di genetica, eccetera, appunto, io ho trovato queste due opinioni. Una che dice che il monogenismo è molto sfavorito dal punto di vista statistico, Facchini. D'altra parte, anche a me, a buon senso, sembra che la tua obiezione sia molto giusta, perché è vero che la spiegazione dell'evoluzione è fatta per una mutazione casuale e sostenuta, diciamo, dal fatto che quell'individuo che si è... che è un po' diverso trova più facilità ad ambientarsi, a sopravvivere, quindi i suoi discendenti tendono piano piano a soppiantare quelli della specie, o comunque tendono ad affermarsi nel nuovo ambiente. Adesso io lascerei altre domande strettamente scientifiche, anche perché molto più di questo non vi so dire, penso che... Invece quello che abbiamo detto già è sufficiente per dire quali sono le questioni che la scienza ha planteato, ha posto alla riflessione teologica. E noi un po' di cose della teologia le avevamo già viste, gente che allora interpreta in modo solo simbolico i racconti della Genesi, dice quindi Adamo ed Eva non occorre che siano esistiti, potrebbe essere... Vediamo cosa dice il Magistero. Cosa il Magistero dal 1950 a oggi ha detto su questi temi. Allora, 1950, Humani Generis, Pio XII. Ne abbiamo già visto un breve passo a proposito proprio della teoria dell'evoluzione, Carlo, dove Pio XII dice... I figli della Chiesa in questo non hanno, cioè possono recepire anche le teorie scientifiche, a patto che siano teorie anche ben confermate, ben consolidate, e comunque non c'è una difficoltà di principio ad accogliere l'idea dell'evoluzione nell'origine, diciamo, anche dell'uomo, eventualmente nella sua parte biologica. Poi sottolinea che l'uomo è uomo perché ha un'anima e quella viene direttamente da Dio. Su quel punto non può essere un passo evolutivo l'avere la presenza dell'uomo, perché ci vuole l'anima che solo Dio può dare. In un altro passaggio però affronta la questione del monogenismo o poligenismo, e allora dopo aver detto che appunto riguardo all'evoluzione c'è la possibilità, la libertà di investigare, di ricercare, dice a proposito del poligenismo: i figli della Chiesa non godono affatto della medesima libertà. A proposito del poligenismo, i fedeli infatti non possono abbracciare quell'opinione i cui assertori insegnano, cioè i poligenisti, cioè insegnano che dopo Adamo sono esistiti qui sulla terra dei veri uomini che non hanno avuto origine per generazione naturale dal medesimo, cioè da Adamo, come progenitore di tutti gli uomini. Oppure, altra possibilità sempre poligenista, oppure insegnano che Adamo rappresenta l'insieme di molti progenitori, quindi che Adamo sarebbe un nome per esprimere un gruppo, diciamo. Dice: i fedeli non hanno questa libertà di abbracciare questa opinione o una di queste due opinioni, perché dice non si vede in alcun modo, interessante la formulazione, come queste affermazioni si possano accordare con quanto le fonti della rivelazione, uno, e gli atti del Magistero della Chiesa, due, ci insegnano circa il peccato originale. E lui dice, poi continua, dopo vado avanti, non si vede in alcun modo come conciliare il poligenismo, diciamo così, con le affermazioni della Rivelazione e del Magistero sul peccato originale. Peccato originale che proviene da un peccato veramente commesso da Adamo personalmente. Un peccato veramente commesso da Adamo personalmente. E che questo peccato, trasmesso a tutti per generazione, inerisce a ciascun uomo come proprio. Ecco, un commento necessario. Senz'altro per Pio XII va mantenuta una sostanziale storicità del racconto della Genesi, perché lui si riferisce ad Adamo che ha veramente commesso personalmente questo il peccato originale, poi questo viene trasmesso a tutti per generazione, quindi Adamo è una figura reale, vera, unica. Però dice, non si vede, intanto dice, i figli della Chiesa non godono della medesima libertà, cioè la libertà di abbracciare un'opinione. Perché? Perché non si vede come conciliare questa opinione con... Ora, è piuttosto forte l'affermazione, però non è un'affermazione, dice anathema sit, se uno dice questo. In quel momento in cui scriveva lui, questa era... magari è ancora così anche oggi, però in quel momento lui dice no, io non si vede come si possa conciliare il peccato originale con la visione poligenista. Quindi i figli della Chiesa non hanno la libertà di abbracciare questa opinione. Questo, come commenta diciamo Castellucci e come hanno detto anche altri, dice, non si dice che non si potrà mai accordare l'opinione del poligenismo con il dogma del peccato originale, ma al momento non si vede come ciò possa accadere. Si manterrebbe così implicitamente aperta la possibilità che in futuro si trovi invece un accordo. Però un dato di fatto è che sulla questione del poligenismo Pio XII si esprime in questo modo, molto. Questa sul poligenismo è l'affermazione più, diciamo, più diretta, poi dopo vedremo i documenti successivi, però non ce ne sono altre che inquadrano la questione in questo modo così. Poi, se uno però va a vedere, io mi sono cercando cose sul poligenismo, cercavo spiegazioni maggiori, ma ho trovato siti vari, per esempio ho trovato poligenismo su sapere.it, che è una specie di enciclopedia sul web, e che parla del poligenismo e dice, riportando la posizione della Chiesa, accidenti, non lo trovo più. Vabbè, avevo trovato una cosa, due o tre siti comunque che ma poi su sapere.it in realtà è più equilibrato e la cosa, da quello che vedo adesso, mi sembra vabbè, avevo trovato due o tre siti in cui si diceva chiaramente il poligenismo è stato condannato da Pio XII, quindi la Chiesa Cattolica afferma solo il monogenismo perché era... Che, ecco, detto così non è vero, non è che il poligenismo è stato condannato, non c'è nessuna condanna al poligenismo, c'è questa seria avvertenza e presa di posizione di Pio XII sulla questione. Il poligenismo è un'opinione scientifica, sì. Quindi non è che c'è una condanna di un'opinione scientifica, dice semplicemente che un cattolico non può aderire a un'opinione scientifica di tutti i politici. Sono poi opinioni, okay. Però non dimostrate. Ok, infatti. Però non è un'opinione, cioè non è una posizione di più definitiva, cioè non dice non si potrà mai accettare una cosa del genere. Che non si capisce come si può. Esattamente, non si capisce come si possa. Vediamo i documenti successivi del Magistero. Quindi, per esempio, il Concilio Vaticano II parla in modo non tanto, cioè non ha una trattazione sul peccato originale ampia, profonda, estesa, però ne parla in vari punti, fa riferimento, soprattutto in Gaudium et Spes, ci sono due punti, però anche Lumen Gentium, adesso allora vi dico se volete i punti, Lumen Gentium 2, Dei Verbum 3 e Gaudium et Spes 13 e anche 22. 13 e poi anche 22. Anche altri punti, anche altre cose, però diciamo, limitiamoci a questo. In Lumen Gentium 2 si dice: l'Eterno Padre ha decretato di elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita divina, e quando essi caddero in Adamo non li ha abbandonati. E qui è solo una cosa di passaggio, però quando essi caddero in Adamo non li ha abbandonati, non ha abbandonato gli uomini. E dice Castellucci, ed è una cosa valida anche per gli altri passaggi che vedremo, non si abbozza alcun tentativo ermeneutico, cioè si prende la cosa così come è, come un dato che va, non è che si dice, si fanno tentativi di destoricizzare questo fatto della caduta dei progenitori, no, lo si prende come una cosa. Dei Verbum 3, dopo la loro, dice Dio eccetera eccetera, volendo aprire la via della soprannaturale salvezza, fin dal principio manifestò se stesso ai progenitori, fin dal principio manifestò se stesso, quindi c'è stato un momento nel quale Dio era familiare, no? con i progenitori. Dopo la loro caduta, con la promessa della redenzione, li risollevò alla speranza della salvezza. Quindi anche qui la caduta è un episodio che appare, almeno storico, che è preceduto da una condizione in cui Dio si era manifestato ai progenitori, e poi avviene la caduta e Dio allora promette la redenzione. Quindi c'è una visione del peccato come qualcosa che è avvenuto in un momento della storia. Poi i due testi di Gaudium et Spes, il 13, capitolo 13, a un certo punto dice: costituito da Dio in uno stato di giustizia, quindi c'è lo stato di giustizia iniziale, l'uomo, tentato dal maligno, fin dagli inizi della storia abusò della libertà sua, erigendosi contro Dio e bramando di conseguire il suo fine al di fuori di Dio. C'è anche una certa già interpretazione del contenuto del peccato originale, bramando di conseguire il suo fine al di fuori di Dio. Ma soprattutto si dice fin dagli inizi della storia. Questo è un passo importante perché si parla di storia. E analogamente Gaudium et Spes 22, il numero famosissimo dove si dice che Cristo svela l'uomo all'uomo, eccetera, dice: Cristo Signore è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli d'Adamo la somiglianza con Dio. Fin qui uno potrebbe dire figli di Adamo può essere un modo per dire l'umanità intera, però dice la somiglianza con Dio resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato. Anche qui ci si riferisce agli inizi della storia. Ecco, diciamo questi cenni per dire che i testi del Concilio dove si parla del peccato originale vedono tutti il peccato come un fatto storico e in nessun punto si accenna a una possibilità di leggere questo fatto primordiale come appunto un simbolo della situazione decaduta dell'umanità. No, viene semplicemente affermato come un fatto. e direi, visto che è finita l'ora, fermiamoci qui. La prossima volta vedremo il catechismo, il compendio e anche la dichiarazione della Commissione Teologica Internazionale sui bambini senza battesimo, perché anche lì, che è del 2010, anche lì sì, comunque c'è una esposizione sul peccato originale. Se poi avrete domande, magari la prossima volta cominciamo anche con qualche domanda.